quante cose avrò quando nascerò di nuovo. Forse un'altra faccia e non sarò mai più scordato. Io quante cose che farò quando nascerò di nuovo. Venderò quest'anima che profuma di bucato. Stelle cadenti che dopo si avverano, su queste mani raccoglierò. Ed io vivrò, ed io vivrò. Non voglio avere più niente da perdere e voglio ridere fino alle lacrime. Salterò fuori da questa maschera, avrò più tempo e coraggio da vendere. Stavolta non lavorerò, quando nascerò di nuovo. Grandi avventure riempiranno il mio passato. Stavolta io mi rifarò, quando nascerò di nuovo. Non rinnegherò il giorno in cui io sono nato. Delle cadenti che dopo si avverano, su queste mani raccoglierò. Ed io vivrò, ed io vivrò. Non voglio avere più niente da perdere di questa volta.